Allora, diciamo, per quanto sono ora, sono le 6:30, la manifestazione ancora non si è conclusa, sta continuando ad arrivare una parte di corteo che ancora deve entrare a Porta San Paolo, c'è molta gente in tutta l'area intorno alla piramide a Porta San Paolo medesima, in questo momento dal palco stanno parlando i partigiani e c'è anche un ufficiale dell'esercito alleato che sbarcò a Anzio e che combatté fianco a fianco dei partigiani e che sta ripetendo quello che abbiamo detto anche noi come Comitato Fermiamo la Guerra dal palco, e cioè che quello che abbiamo imparato da chi ha fatto la liberazione è soprattutto quello che loro cercavano, di cui erano convinti, e cioè che stavano combattendo una guerra perché fosse l'ultima. E la giornata penso che sia stata una giornata molto positiva, che ha smentito tutte le preoccupazioni relativamente alle violenze. C'è stata sì l'espressione, diciamo, da parte di molti gruppi, organizzazioni, reti, di una radicalità, di una forma di conflitto che è durata tutta la giornata per contestare il presidente americano, ma non ci sono stati nessun incidente di rilievo. Durante il corteo il corteo è stato molto partecipato, anche più di quello che ci aspettavamo in una giornata feriale, e gli unici elementi, diciamo, di tensione che hanno portato in alcuni momenti a degli interventi piccoli, mi sembra, per quello che so, delle forze dell'ordine, sono stati dovuti a gruppi molto isolati che sono stati isolati direttamente dai manifestanti. Comunque per adesso, diciamo, che ci sembra che la giornata sia stata assolutamente positiva e che abbia smentito le solite previsioni catastrofiche che erano state fatte. Ancora una volta il Movimento per la Pace ha dimostrato la sua maturità, la sua civiltà e anche la sua forza.